Mi vedete? Mi vedete? Mi vedete, gente di questa mia antica terra? Gli ultimi passi allineo, l'ultima scintilla di sole mi abbaglia, poi buio, il grande sonno, il nulla mi vuole e sono ancora viva, viva alla riva di Acheronte. Non mi spetta una musica di nozze, al mio sposalizio musica muta. Sposerò Acheronte. O Tebe, o nobili di Tebe, che tanto potere avete, a quedice, santa cerchia di Tebe, ricchezza di carri, vi voglio testimoni. Guardate come vado sola, senza pianto di parenti e per quali leggi alla cella il cumulo tombale di una incredibile fossa. Destino ostile, esclusa dai vivi, cadavere vivente. Senza vita, senza morte. Hai toccato l'angoscia che più mi strugge, ritornello dolente del padre, patimento vivo di noi tutti, nobili eredi di Labdaco. Il perdersi di mia madre in quell'amore e unirsi nel letto col proprio sangue disperata con mio padre e nascevo io, vita di dolore, col mio destino segnato senza uomo. Io, capisci, sto per trasferirmi là da loro. Ah, fratello, che sinistre nozze le tue! Morto, morto trafiggi la mia esistenza. Nessuno mi piange, nessuno è mio, non ho musica di nozze. Trascino passi già segnati, occhio non ha più diritto al chiarore dell'alba. La mia fine brucia, nessuno la bagna di pianto.